Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, c'è un tema chiaramente che la radio, Radio 24, sta trattando da questa mattina e anche da ieri, ma mi riferisco solo a questa giornata. Il ministro Calenda ospite a Mix 24 in mattinata, i nostri GR 24 vi hanno già dato alcune delle dichiarazioni del ministro Calenda. Mi riferisco chiaramente alla vicenda all'Italia, ne ha parlato fino a pochi minuti fa anche Oscar Giannino. Ne parleremo anche noi nella seconda ora del programma, fermo restando che da questo punto di vista l'opinione molto spaccata tra chi dice basta con quello che ci è costato in questi anni, oltre 7 miliardi e mezzo, rinunciamo all'idea della compagnia, come si chiamavano una volta, di bandiera, e quindi della compagnia sistemica, e perché il mondo va avanti, si può anche fare a meno del vettore per il sistema paese, e altri che dicono no, attenzione, sarebbe un danno, bisogna in ogni caso tenere in vita l'Italia. Vi è anche una terza posizione che cercheremo di affrontare più avanti, e mi riferisco ai casi, per essere molto concreti e poco ideologici, ai casi, i casi di chi invece in questi anni è riuscito a ripartire. Ci sono tre casi soprattutto, perché abbastanza vicini, con tutte le differenze del caso, alla vicenda d'Italia, e mi riferisco alle compagnie ex di bandiera, insomma, di Grecia, Spagna e Portogallo, dove invece si è riusciti a, con un percorso anche difficile, ci mancherebbe, ma si è riusciti a farle rinascere. Quindi non è detto che, diciamo, necessariamente le due alternative siano o mollare l'Italia completamente oppure continuare a mantenerla in vita, come dicono alcuni, con però diciamo in vita artificiale. Faccio notare infatti che le compagnie di Portogallo, Spagna e Grecia, che di Spagna che di Grecia, hanno chiuso il 2016 in utile, e alcuni fanno notare che il piano stesso, l'ho detto anche il ministro Calenda oggi, va detto, il piano stesso presentato dall'azionista di riferimento Etihad in realtà non aveva quello sbocco per cui uno può dire vabbè, facciamo ulteriori sacrifici e poi ci sarà il cosiddetto turnaround, la svolta, perché secondo molti non faceva altro che rimandare il problema di un anno. Di questo parleremo anche però di due altre cose in apertura. Da un lato un'operazione enorme che riguarda il settore del lusso, ma che determina ancora una volta il ruolo della Francia sotto i riflettori per adesso il ballottaggio, ma il ruolo della Francia nel settore del lusso, perché Bernard Arnault, e quindi il numero uno del colosso Louis Vuitton Moët, vuole il 26% quasi della holding Christian Dior, che ancora non possiede. Ha messo sul piatto, per avere la totalità di Dior, una cifra monstra, nel senso che vale quasi come una manovra finanziaria in Italia, un po' di meno, 12 miliardi di euro, oltre 12 miliardi di euro, in un'offerta in parte in contanti 172 euro e una parte con azioni Hermès per ogni azione Dior. Successivamente Louis Vuitton Moët acquisirà il 100% del marchio Christian Dior Couture per 6 miliardi e mezzo. Insomma, alla fine tutti i marchi Christian Dior apparterranno al gruppo Louis Vuitton Moët, perché, e resterà quotata solo Louis Vuitton Moët. Perché lo dico? Perché questo ha avuto una ripercussione immediata anche sulla borsa e anche in Italia. Non a caso Moncler guadagna il 2,70, Ferragamo il 2,13. Devo dire che il miglior titolo però, e anche di questo parleremo, è Fiat Chrysler, che sta crescendo tantissimo, più 8,60% dopo la trimestrale. Utile è una trimestrale da record, utile netto a 600 milioni, più 34%, i ricavi netti più 4% a 27,7 miliardi, e la borsa da questo punto di vista festeggia. Avremo tra l'altro un approfondimento su questo. Faccio notare che va bene ovviamente anche la controllante Exor, più 2,5%, visto che stiamo parlando di borsa, oltre ai titoli già citati, bene anche Atlantia più 2,30, Ferrari più 2, Case New Holland, CNH Industrial più 1,60%, Tenaris più 1,5% come Leonardo, ex Finmeccanica, Hughes & Porter più 1,40%. Chi perde un po' le banche, non in maniera particolarmente significativa, Banco BPM meno 2%, Unicredit meno 1,70%, Generali meno 1,70%, Mediobanca meno 1,60%, Intesa San Paolo meno 1,1%, Ubibanca anch'essa in calo dell'1,1%, euro su dollaro in rafforzamento 1,08,80, in attesa di sapere, di avere notizia della decisione di Donald Trump, che vuole andare avanti nella riforma fiscale abbassando la pressione fiscale, da quello che abbiamo capito soprattutto sulla classe media. Devo dire che in questo momento il Dow Jones è abbastanza fermo, più 0,15%. Per quello che riguarda le altre borse, abbiamo Parigi più 0,20%, Francoforte invariata, Londra più 0,20%, Milano complessivamente è sostanzialmente invariata. Alcuni ascoltatori mi fanno notare che anche Sabena, che era fallita e poi risorta, anche Swissair, certo, negli ultimi anni. Ho citato i casi di TAP, Iberia e Olympic perché, diciamo, come affinità, come area geografica, come paese, sono quelli più eclatanti, sono tornati in utile. Qui lo dico subito prima che mi inondiate di messaggi. Il tema non è dare solo la colpa ai dipendenti che hanno votato no, perché insomma molti hanno detto, lo hanno anche dichiarato in varie interviste presenti sui giornali, alcuni comunque ritengono che tanto vi sarebbe stato e vi sarà comunque un piano B, cosa che il ministro Calenda invece ha escluso anche oggi, altri ritengono che dopo anni e anni di sacrifici fosse un ulteriore taglio senza futuro. Per cui, ma il problema è anche l'azionista di riferimento, nel senso che è vero che il pubblico in questi anni ha dato una pessima impressione di sé, ascolteremo anche varie dichiarazioni su questo, però è anche vero che il piano di Etihad oggettivamente non chiariva, al di là dei tagli, perché l'Alitalia, nonostante il piano industriale di Etihad di 2 anni fa e lo spostamento dell'attività verso le rotte a lunga distanza, mollando tra virgolette la parte più di carattere nazionale, ancora vede la compagnia aerea perdere 2 milioni al giorno sostanzialmente, quindi senza nessun tipo di miglioramento in prospettiva. E poi molti hanno fatto notare che un conto sono i desiderata del piano e altra cosa l'operatività, cioè quando tu hai messo solo pochi aerei nuovi sul lungo raggio. E la dichiarazione è una dichiarazione più di intenti, visto che sono solo 22 gli aerei su un totale di 170 della flotta a praticare il lungo raggio. Comunque vi arriveremo, onestamente, per chi ascolta questo programma da anni sa che insomma, il tema Alitalia è uno di quei temi che ciclicamente ritornano. Per fortuna, mettiamola così, altri soggetti che 20 anni fa sembravano così dei malati incurabili, mi riferisco alle Poste Italiane e alle Ferrovie dello Stato, hanno dimostrato in questi anni di non solo essere curabili e di poter produrre anche utili e lavorare in maniera efficiente, lo dicono i dati di bilancio. Non si vede perché, con tutte le differenze del caso, non si debba rinunciare all'idea che Alitalia possa essere risanata. Certo, tempo a disposizione ormai è pochissimo e non ho ben capito nemmeno io che cosa dovrebbe servire per fare un salto di qualità così, così forte. Attenzione a chi mi sta scrivendo, tanto l'Italia non può fallire, non lo darei così per scontato, fallire nel senso è sistemica al paese, anche perché sappiamo che nel frattempo molti aeroporti di carattere regionale hanno fatto accordi e hanno invogliato le compagnie low cost ad atterrare nei loro aeroporti, quindi non è vero che insomma l'elemento sistemico sia così determinante da permettere, diciamo, da non pensare alla cessazione dell'attività di Alitalia. Lo dico a chi mi sta scrivendo, lei è il solito statalista, ho appena detto il contrario. Comunque 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, rapidamente le altre notizie in breve. Partiamo proprio da Trump, che tra l'altro tutta questa operazione di carattere fiscale, definita dal segretario al tesoro Mnuchin il più grande taglio delle tasse e la più ampia riforma fiscale della storia degli Stati Uniti. Qualcuno mi sta già scrivendo: ma cosa succederà al deficit americano? Beh, è fatta anche a deficit, nel senso che il deficit degli Stati Uniti dovrebbe andare al 10,5%. Non hanno il patto di stabilità, non hanno Maastricht, è un deficit molto alto. In Europa sarebbe inaccettabile, sapendo che la soglia è del 3%, però in parte viene fatta anche a deficit. In attesa di conoscere i dettagli di questa riforma, un commento ce l'abbiamo da Alberto Orioli, come sempre per i 100 secondi di Radio 24, sono 24 ore trasmessi anche su RDS. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alberto Orioli. La notizia che ci aspettiamo in serata è che Donald Trump darà il via al suo ambiziosissimo programma di abbattimento delle tasse. Dovrebbe cominciare con l'annuncio di una nuova corporate tax, la tassa sulle imprese, che scenderebbe dal 35% attuale al 15%. Accanto a questa vera aliquota rivoluzionaria, il nuovo presidente vorrebbe affiancare anche una sorta di condono per consentire alle imprese che finora hanno fatto profitti all'estero di rimpatriarli pagando solo una tassa del 10% e non del 35% come invece sarebbe adesso. Sono in gioco almeno 2.600 miliardi di dollari di utili parcheggiati fuori dai confini ad oggi. Trump dovrebbe fare marcia indietro invece sulla minaccia della cosiddetta border tax, quella che avrebbe colpito le importazioni. Le stesse multinazionali avevano fatto la voce grossa e probabilmente sono state ascoltate. È evidente che la corsa al ribasso degli Stati Uniti ripropone il tema della competizione fiscale tra Stati e può aprire la strada a un grande riposizionamento degli investimenti delle imprese. La stessa Londra del dopo Brexit ha annunciato tasse sulle imprese al 17%. L'Europa deve prendere atto che è arrivato il tempo di dare seguito a politiche di armonizzazione fiscale, tra l'altro funzionali anche a dare forza alla moneta unica. E in questa Europa già in difficoltà, che dire dell'Italia, dove il cosiddetto total tax rate sulle imprese è del 64,8%. Si può solo dire che c'è un bel tema da mettere in cima all'agenda della politica economica, altrimenti la crescita e lo sviluppo, francamente, ci discordiamo. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Andiamo alle notizie di carattere europeo. Per quello che riguarda la Germania, il governo ha alzato lievemente le stime di crescita per il 2017, portandolo all'1,5% contro l'1,4% precedentemente atteso. Invece il gruppo Credit Suisse lancia un aumento di capitale da 4 miliardi di franchi per rafforzare il capitale, abbandonando l'idea di quotare la sua controllata bancaria svizzera. È la terza grande banca europea, dopo Unicredit e Deutsche Bank, a scegliere l'aumento di capitale. D'Italia, buone notizie sull'asta dei bot italiani a 6 mesi, collocati tutti i 6 miliardi di euro con un tasso al minimo storico. Qui c'è ancora l'effetto Draghi, non è mai venuto meno. Rendono praticamente, prestare soldi all'Italia per 6 mesi rende meno 0,32 326%, come rendimento lordo. Domanda in aumento, faccio notare che il rendimento nell'asta di marzo era dello meno 0,29%, quindi siamo a meno 0,32%, quindi grazie anche a Draghi si preferisce perdere ma dare soldi all'Italia, al debito italiano, mi riferisco chiaramente all'arco dei 6 mesi come rendimento medio. Due notizie invece sull'Italia che non sono affatto positive. La prima è il fatto che abbiamo la maglia nera, quindi siamo all'ultimo posto per giovani inattivi, né occupati né in formazione, i cosiddetti NEET, e siamo anche secondi per il gap tra uomini e donne che lavorano, e siamo terzi come numero più basso di occupati e di reddito lordo disponibile per le famiglie. E poi, sempre Eurostat ci fa sapere che nel 2016 la percentuale di laureati tra le persone tra i 30 e i 34 anni è cresciuta in tutti i paesi dell'Unione Europea rispetto al 2002, ma l'Italia è quello dove la percentuale resta la più bassa, peggio di noi solo la Romania, 26,2%, questo nonostante le lauree cosiddette brevi avrebbero dovuto aumentare, diciamo, la percentuale di laureati rispetto al totale. Il livello di persone con titolo di istruzione superiore è comunque raddoppiato in Italia rispetto al 2002, quando erano appunto al 13%. Vedo giustamente molti messaggi al 349-238-6666, sia su WhatsApp che su come SMS su Alitalia. Vedo che molti, che la divisione tra chi dice ma chiudiamola e basta, e chi dice attenzione come fa un paese come l'Italia, che è esportatore, che vive sul turismo, a non avere una compagnia, diciamo, attenta anche agli interessi del paese, non solo a portare, come era la critica nel caso di Air France, tutto il traffico su Parigi. Vi dividete in due, sì, ma resta un fatto che qui non è un'opinione solo così di carattere personale o di scenario. Qui c'è un gruppo che perde 600 milioni di euro nel 2016, il bilancio non l'ha ancora pubblicato, e quindi perde quasi 2 milioni di euro al giorno. Tra l'89 e il 2007 all'Italia ha chiuso 15 bilanci in perdita, dall'89 al 2007, cioè dal muro di Berlino che veniva giù quasi al 2007, allo scoppio della crisi. Questo perché lo dico? Perché non si può neanche imputare allo scoppio della crisi del 2008 la crisi di Alitalia. 15 bilanci in perdita, e ha accumulato in quel periodo un rosso da 4 miliardi e 400 milioni di euro. Complessivamente il calcolo è che sia costata ai contribuenti 7 miliardi e mezzo in questi 20 anni all'Italia. Dall'arrivo di Etihad, dal 2008, scusatemi, all'arrivo di Etihad ha perso un altro miliardo e mezzo, dopo i famosi capitani coraggiosi, l'operazione di Berlusconi, sentiremo anche alcune voci. E adesso, da quando c'è Etihad, è arrivata a perdere 600 milioni di euro. Non è migliorato il bilancio, poi lo ricorderemo anche nei dati, dall'arrivo di Etihad. Questo è il vero punto, cioè non si vede un miglioramento. Se si vedesse un lento miglioramento, uno potrebbe anche dire vabbè, sei sulla strada giusta. Deluso e preoccupato il premier Gentiloni, l'opportunità dell'accordo non è stata colta, si riferisce al referendum vinto con una, devo dire, schiacciante vittoria dei no, 67%. Non la si può nazionalizzare, siamo al lavoro, ma l'esito del referendum rende tutto più difficile. Lo ha detto appunto il premier al termine della visita effettuata al pastificio Rummo a Benevento. Non posso tacere la mia preoccupazione in queste ore per quello che sta succedendo in tutt'altro scenario con un'azienda importante italiana come l'Alitalia. Anche lì bisognerebbe essere in grado di stare sul mercato, di competere. Devo dire che da parte mia c'è stata delusione nel fatto che l'opportunità che era offerta dall'accordo tra l'azienda e i sindacati non sia stata colta. Chi governa ha come compito quello di dedicarsi alla soluzione dei problemi, ma anche di dire la verità. E io su questa questione la verità l'avevo detta prima e la dico anche adesso. Non ci sono le condizioni per una nazionalizzazione dell'Alitalia. Tuttavia non c'è dubbio che il governo si sente impegnato dalla parte dei cittadini, dalla parte degli utenti, dei contribuenti, e certamente anche impegnato a non disperdere le risorse di gli asset, le risorse di lavoro di questa compagnia, come hanno detto i ministri competenti in queste ore. Un attimo di pazienza ancora per Alitalia. Molti ricordano, vedo che tutti si ricordano giustamente anche dell'ipotesi di Prodi di vendere Air France KLM bloccata da Berlusconi in campagna elettorale. Sì, guardate, abbiamo due, non chicche, ma insomma è materiale d'archivio. Una è la dichiarazione di Berlusconi e l'altra però è anche quella dell'ex premier Renzi, perché pure lì si festeggiò forse con anzi senza forse, si festeggiò in maniera impropria e con un anticipo che poi non è stato supportato dai fatti. Parliamo della Francia, dicevo, ma non per elezioni. Insomma, 12 miliardi mette sul piatto Bernard Arnault, che ha il controllo sia di Christian Dior sia del colosso Louis Vuitton Moanessi, entrambi quotati a Parigi. Offerta mista di 8 miliardi di euro per quasi 9 milioni di azioni Hermès, che così si libera delle azioni di Hermès che deteneva, che erano un frutto di un tentativo di, fallito di scalata, la perla del lusso francese, e appunto in parte cash, in parte con azioni Hermès. E poi acquisterà il 100% del marchio Christian Dior Couture, oggi di Christian Dior, per 6 miliardi e mezzo. Solo Louis Vuitton Moanessi, se ho ben capito, resterà quotata. E chiedo conferma a Giulia Crivelli del Sole 24 Ore. Buonasera Giulia. Buonasera Sebastiano. Sì, hai detto bene, è circa 4 volte la manovrina questa operazione di, di Arnault, che peraltro guida un colosso, ha fondato e guida un colosso che ha chiuso il 2016 con quasi 40 miliardi di fatturato, quindi insomma è alla sua portata, è il più grande gruppo del lusso al mondo. Però un'operazione così non la si ricorda, perché le due più recenti, che tra l'altro hanno coinvolto proprio dei marchi italiani, sono quella di Bulgari, acquistata per 4,3 miliardi nel 2011, e l'Oro Piana 2 miliardi nel 2013. In questo momento ci sono 70 brand nel portafoglio di LVMH e tanti sono italiani. Questa operazione è tutta rivolta all'interno, perché Arnault già controllava parte di Christian Dior. Era attesa, si dice, da parecchi anni, alcuni addirittura dicono 20 anni, per fare chiarezza in questa struttura lussuosissima e matrioshke che Arnault si era inventato. Allora, l'operazione, se ho ben capito, porta a semplificare la struttura e rafforzare la cosiddetta divisione moda e pelletteria, no? Cioè... Sì, perché Christian Dior è comunque un marchio da 2 miliardi di euro, quindi insomma... E questo vale anche per Hermès. Hermès addirittura ha superato per la prima volta nel 2016 5 miliardi. Purtroppo per Hermès però questo fatto che lui si sia liberato di tutte le azioni oggi ha fatto calare il titolo in borsa. Io tra l'altro domani ci sarà la trimestrale del primo trimestre 2017 di Hermès e secondo me sarà ottima anche quella. Perciò in realtà questo calo di Hermès secondo me il mercato lo riassorbirà. Ci sono invece gli exploit, come dicevi tu prima, di tanti altri titoli del lusso che indicano probabilmente sì un po' di euforia, anche perché ieri la trimestrale di Kering, che sono i grandi rivali di LVMH, anche se valgono un terzo di LVMH come ricavi, era ottima anche quella, perciò addirittura più 30%, cioè un momento magico per Kering e per Gucci in particolare. Ecco, l'obiettivo di fondo, e poi veniamo anche alle reazioni, visto che siamo in tema di borsa nel mercato, Moncler ha guadagnato il 3%, ti chiedo però ancora qualche minuto di pazienza dopo il meteo e la pubblicità, perché sappiamo che in Francia c'è il colosso Arnault, che appunto ha il 47,5% di Louis Vuitton Moanessi, e la maggioranza di Christian Dior, e l'abbiamo appena chiarito. E dentro ha dei marchi, ne ha 70, tu ricordavi, c'è di tutto, oltre a Christian Dior, Louis Vuitton, Loro Piana, Fendi, Céline, Emilio Pucci, Bulgari, Givenchy, Kenzo, Marc Jacobs, Zenith, Tag, Hoyer, ti ringrazio, no, non so che sono orologi, ma Chaumet, Acqua di Parma e via così. Poi c'è l'altro colosso, e mi riferisco a François Pinault, di cui siamo occupati per la mostra a Venezia, nei nostri GR, a Palazzo Grassi e in fondazione Punta la Dogana, ma in realtà Pinault ha sostanzialmente marchi tra cui Gucci, Saint Laurent, Balenciaga, Stella McCartney, Dodo, Bottega Veneta, Brioni, si sente anche elencandoli qual è la presenza degli italiani, tantissima. Pomellato, Puma, Boucheron, Alexander McQueen. Ecco, qui sappiamo che la gara è tra loro due ormai, e vorrei capire questo cosa cambia poi nelle prospettive, anche se le cambia di François Pinault. Dopo il meteo, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova, pantera.it, col TH. Vi presento Focus Economia. Di nuovo nuovo in diretta. Dunque, Giulia Crivelli, questo che cosa cambia nello scontro? Ma non è uno scontro, diciamo, è uno scontro sempre strisciante tra Arnaud da una parte e Pino dall'altra, e poi cosa cambia anche per i nostri marchi, così ci avviciniamo alla borsa? Ma la distanza tra i due appunto è grande, uno è grande circa tre volte l'altro, però questa mossa di Arnaud con l'impiego di questa quantità gigantesca di risorse vuol dire che molto probabilmente per un po' di tempo di acquisizioni non ne farà, con buona pace dei magari marchi che speravano di essere coperti d'oro come è successo a Loro Piana e Bulgari. Per Kering, come dicevo, cioè il gruppo di Pinot, anche lì, essendo un momento davvero magico per Gucci e Yves Saint Laurent, forse anche per loro è venuto il momento di concentrarsi sui loro marchi più che cercare fuori. L'unica eccezione potrebbe essere Puma, che non è un marchio del lusso e che per anni non è andato tanto bene. Ecco, Kering potrebbe magari venderlo adesso, che è in un buon momento, per comprare qualcosa di lusso, e allora lì sì che potrebbe esserci qualche preda interessante anche in Italia. Anche perché Jab due giorni fa ha annunciato che possiede Jimmy Choo, ha annunciato che preferisce concentrarsi su Coty, che sono i profumi, e tutte la parte di caffè. Sì, ce ne siamo quindi, vuole disfarsi anche di Belstaff, che è un marchio comunque che aveva acquistato dalla famiglia italiana Malenotti, probabilmente anche di Balli, perciò prede interessanti sul mercato ce ne sono. Poi ci sono alcune PMI italiane, PMI o comunque aziende medie, quindi non miliardarie, come la Perla, che potrebbe essere una preda interessante. Quindi qualcosa succederà. Qualcosa succederà. Per inciso, mi chiedono molti ascoltatori, ma come mai va così bene il lusso? Beh, qui sappiamo che va bene, perché da un lato c'è stata a livello anche europeo in questi anni di crisi una divaricazione negli acquisti, cioè o il low cost o il lusso, ma non è solo il frutto del fatto che i più ricchi siano diventati più ricchi e i più poveri più poveri, è anche frutto di una divaricazione, si va a guardare, sparisce la fascia media, preferisci comprare 10 cose dai marchi, diciamo, della moda a basso prezzo, penso a Zara e H&M per citare, o anche il nostro Benetton per citare quelli più conosciuti, poi una cosa di pregio, cioè c'è una divaricazione vera e propria, non stai più nella parte in mezzo, vai là dove c'è il valore aggiunto, l'abbiamo raccontato molte volte, valore aggiunto in un senso o nell'altro. E c'è anche la ripresa dei russi. Ecco, perché... però c'è le vendite, i ricavi del lusso sono trainate anche e soprattutto dai paesi emergenti. Paesi emergenti, la Cina, e tra l'altro dai millennials, cioè i nati dopo il 1980, che già oggi assorbono circa un terzo dei consumi di lusso. Amano le cose fatte molto bene, sono disposte a pagare, non amano più tanto i loghi, e questi sono i consumatori del futuro, che però già oggi comprano. Quindi le prospettive, ripeto, che si sommano alla ripresa degli acquisti da parte dei russi sono buone per le cose belle fatte bene, che guarda caso spesso sono fatte in Italia. Sì, devo dire che su questo le acquisizioni di marchi italiani hanno sempre poi valorizzato il marchio, nel senso non c'è mai stata un'operazione, diciamo, predatoria, ma si è andati a investire, penso a Bottega Veneta, penso a Gucci, certo. Bulgari, adesso ne abbiamo citati prima tutti i marchi italiani in mano ai due colossi francesi, hanno sempre valorizzato l'attività italiana, proprio perché si riconosce che poi la qualità si paga. Tra l'altro, ultimo dettaglio, così, che mi rende un po' orgogliosa, è che Time ha inserito Alessandro Michele, che è il direttore creativo di Gucci, che insieme all'amministratore delegato Marco Bizzarri è il fautore di questa grandissima rimbalzo delle vendite, è stato inserito come unico italiano nelle 100 persone più influenti dell'anno da Time. Quindi veniamo all'Italia, visto che stiamo parlando di Italia. Moncler più 3,45, Ferragamo più 2,34. È solo una reazione, cioè un riflesso, o c'è dell'altro? No, io sono aziende che hanno un modello di business che tra l'altro hanno approfittato anche dei momenti di difficoltà nel 2016 per rifocalizzarsi. Sono distribuite, hanno un portafoglio mercati estremamente equilibrato. Hanno tra l'altro amministratori delegati molto concentrati e quindi hanno ottime prospettive anche loro, perché hanno capito che la nicchia in cui stare era quella della fascia alta, con tra l'altro lavorando tantissimo sul prodotto, perché c'è molta comunicazione nel lusso, ma è il prodotto alla fine che è eccezionale. Sì, questo lo dico anche chi mi sta scrivendo. Rispetto a altri decenni, qui non è solo la forza del marchio, attenzione, perché la neosobrietà vale anche per chi ha i soldi, non solo per chi fa i sacrifici. E cioè che si va a valutare poi la qualità del prodotto. Noi siamo decenni fa, bastava mettere il marchio, poi sulla qualità delle volte era diciamo, era più opinabile, mentre adesso i marchi del lusso vengono venduti, hanno questi numeri, perché poi la qualità, quando si dice una qualità artigianale su scala industriale, che è il segreto dell'Italia, è la qualità che è alta, non è solo il marchio, mi sono comprato... Non siamo più in epoca, lo dico a chi scrive, che magari è più di 40 anni di marchi e basta, ma di qualità del prodotto vero e proprio. Quindi mi dicevi, c'è un'azione di riflesso, ma soprattutto anche un ragionamento di prospettiva. Sì, sì, sono tutte aziende che hanno veramente, partono dal prodotto. Mm-hmm. E per Moncler questo è, chiunque possa, voglia andare a fare un giro nei negozi, vede che offerta incredibile ha. Quindi non è un fenomeno di logo, anzi i loghi diventano sempre più piccoli, è proprio una questione di qualità e di originalità e esclusività, perché poi le collezioni sono sempre più piccole ma tante, per dare l'impressione io avrò quell'oggetto e sarò uno tra i pochissimi ad averlo, quindi sono disposto a pagarlo. I trendsetter su internet, ma è vero che sono ad alto rischio adesso non so come dire, non di marchetta, ma non mi va a dire il termine marchetta, però ad alto rischio di influenza da parte dei grandi marchi, perché poi tu vai a vedere se c'è qualche accordo sotto banco, mentre sappiamo che i giornalisti, lo dico prima che mi scriviate, vengono radiati giustamente se fanno pubblicità o usano la loro immagine professionale per fare pubblicità. Chiedo, è una curiosità mia, perché abbiamo visto anche inchieste, certo, su questo nel mondo del food blog, per esempio. È chiaro, chiunque segua la maggior parte di queste blogger, tra l'altro le più intelligenti, famosa Chiara Ferragni, adesso vogliono essere chiamate influencer e non più blogger, vedono che ogni giorno si vestono in un modo diverso, con dei marchi diversi, quindi c'è un problema di cui secondo me gli stessi frequentatori del blog si stanno accorgendo, di credibilità. Ma come, oggi ti piace da impazzire, è la cosa più bella del mondo un certo marchio, e domani è un altro? È sicuramente una forma di pubblicità occulta, sono stati di recente sanzionati anche da diverse autorità antitrust. Io credo che anche qui c'è stato il boom, bellissimo farsi consigliare, bellissimo soprattutto quando si è giovani, probabilmente rassicurante dire ah ma sì, lo dice Chiara Ferragni o chi per lei, però anche in questo caso i consumatori diventano sempre più informati, vanno a informarsi anche in altro modo, perciò il fenomeno si sta un po' sgonfiando. Ben inteso, non c'è nulla di male, i testimonial esistono quando esiste, certo, la pubblicità, basta però, dirlo. Però appunto sono dichiarati, cioè, tu vedevi il calciatore famoso, l'attore famoso e via così, il cantante famoso che faceva il testimonial per un marchio, c'era scritto pubblicità lì. Altra cosa è avere questa... Sì, questa, spacciare per consigli di per gusto, consigli di stile, gusto, quello che poi è in realtà un consiglio dettato dalla fattura che hai ricevuto. Infatti, molto banalmente, ma non c'è niente di male, basta però che uno non si vanti di essere un fashion blogger indipendente quando poi ti finanziano, e come, le aziende della moda. Grazie a Giulia Crivelli. Grazie a te. Mi scrive un orafo che lavora per Bulgari, hanno una qualità altissima da far paura, è esattamente quello che stiamo dicendo, attenzione che qua non si vince solo con il marchio, ma con la qualità che poi il marchio esprime. Grazie Giulia Crivelli, andiamo sulla borsa. Borsa che è un po' monca, nel senso che i titoli del lusso li abbiamo già fatti con Giulia Crivelli, la Fiat la faremo tra poco con Andrea Malan. Allora Andrea Fontana, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera Sebastiano. Giornata poco mossa in tutte le borse, più 0,15 Milano, più 0,19 Parigi, invariata Francoforte, Londra più 0,20, Dow Jones più 0,30%. Fatti salvi appunto i titoli che dicevo, concentriamoci a questo punto su Atlantia e le banche, dopo il traffico. Focus Economia. Dunque Andrea Fontana, banche e Atlantia. Beh, le banche hanno corretto dopo un paio di giorni molto molto forti, non solo in Italia ma anche in Europa, e in particolare però le italiane avevano raggiunto ieri, almeno per quanto riguarda l'indice di settore, i massimi da maggio-aprile del 2016, quindi massimi da un anno. Quindi c'è stata una correzione, anche perché domani ci sarà la Banca Centrale Europea, è difficile, dicono gli analisti, che Draghi a valle del primo turno delle elezioni francesi già si possa sbilanciare su quello che può essere la politica monetaria della BCE nel medio periodo, quindi dare indicazioni sulla fine del quantitative easing. Oggi qualche commentatore invece segnalava che questo potrebbe arrivare nel corso del mese di giugno, ma sostanzialmente le banche stanno correggendo, quindi prendendo beneficio da questo. Invece ha recuperato terreno quasi più 1,7% oggi Atlantia. Perché se è vero che gli enigmi sull'operazione Abertis non hanno ancora soluzione, oggi sono uscite delle indiscrezioni riguardanti una possibile offerta in parte in denaro e in parte in azioni per l'offerta su Abertis, che invece a Madrid è rimasta piatta, ma è vero che l'attesa oggi si è spostata sul consiglio di amministrazione che domani potrebbe dare il via libera, quindi fare un passo importante nella vendita di una quota di minoranza di Autostrade per l'Italia, società interamente controllata dalla holding Atlantia, una quota intorno al 15% che potrebbe andare ai fondi investimento di Allianz per una cifra intorno ai 2,3-2,5 miliardi di euro, un incasso importante anche in funzione dell'operazione Abertis. Allora andiamo sui migliori e peggiori: TPS più 10,80, Kering più 9,80, Fiat Chrysler, di cui adesso parleremo, più 9,30, D'Amico più 8,60, è noto anche Juventus più 7,20, Zegnago Vetro più 6,20. Fronte opposto, WM Capital meno 5,70, poca roba, Assitec meno 4,40, Sintesi meno 3,70, Credito Valtellinese meno 3,30%. Grazie Andrea Fontana, e noi restiamo invece in tema di borsa perché appunto commentiamo il primo trimestre con risultati record che ha fatto schizzare letteralmente il titolo Fiat in borsa. Più 34% l'utile netto, pari a 600 milioni di euro, e l'utile netto adjusted in aumento del 27% a 700 milioni di euro, EBITDA in crescita dell'11%, 1,5 miliardi, con tutti i settori in miglioramento, eccezione dell'America Latina. La borsa, e chiedo ad Andrea Malan, la voce e la firma del Sole 24 Ore, quando parliamo del mondo auto. Buonasera Andrea. Buonasera a tutti. Dico, la borsa non se lo aspettava o è stata colta, diciamo, in ritardo, perché qualche indicazione era arrivata, ma insomma il rialzo è talmente forte per il titolo Fiat ed è continuato a proseguire lungo tutta la seduta, più 9,33% nel finale. Sì, la borsa non se lo aspettava sicuramente, perché Sergio Marchionne stesso, in occasione dell'assemblea dei soci FCA 10 giorni fa, aveva detto che il primo trimestre era da considerare il più difficile dell'anno, quindi il mercato si era atteso qualche sorpresa negativa, in particolare sul mercato nordamericano, dove FCA ottiene il grosso dei profitti e dove aveva visto un calo dei ricavi sempre nel primo trimestre, appunto. Quello che è successo in realtà è che gli utili in Nord America sono rimasti stabili, quello che è stato perso con i volumi è stato compensato con il miglioramento del mix di prodotto, cioè in sostanza FCA ha venduto più Jeep, più Ram, più pick-up, cioè veicoli a margini alti, e ha ridotto le vendite soprattutto le flotte, cioè quelle meno redditizie, mentre ha mantenuto la quota sui privati. Quindi questa è stata la prima sorpresa positiva. C'è stato un aumento del debito di circa 500 milioni di euro, però rispetto all'anno prima, quando nel primo trimestre era salito di 1,5 miliardi, anche in questo caso c'è un netto miglioramento. Gli oneri finanziari sono scesi grazie alla riduzione del debito lordo, quindi il panorama complessivo è positivo, i target per l'intero 2017 sono stati riconfermati, e tra l'altro la conference call che è appena terminata, non so se avete notato l'andamento in borsa, c'è stata un'ulteriore accelerata, diciamo da un più 5 a un più 9, perché sia Marchionne che il direttore finanziario Richard Palmer sono stati abbastanza ottimisti nell'insieme delle loro dichiarazioni. Ne ricordo solo due per dare il quadro: hanno dato un target di vendite per la somma di Alfa Romeo e Maserati di circa 230.000 unità quest'anno, che sarebbe oltre il doppio rispetto a quella del 2016. Questo è il più significativo, e hanno parlato anche della possibile cessione di Magneti Marelli. Marchionne ha lasciato capire che la decisione verrà presa entro la fine dell'anno prossimo, e in ogni caso potrebbe essere, come si era già scritto, non una cessione a un partner, a un terzo, ma una quotazione separata in borsa, come è stato il caso di Ferrari. Dicevamo che tutti i settori hanno contribuito a questo risultato record, tranne l'America Latina? Sì, l'America Latina è ancora presa dalla crisi brasiliana. In Brasile c'è stato un leggero miglioramento a marzo, confermato ad aprile, quindi sicuramente il gruppo conta su un miglioramento della situazione anche in America Latina nella seconda parte dell'anno. Difficilmente ci sarà un ritorno agli utili che Fiat faceva lì 10 o 15 anni fa, però comunque un miglioramento ci può essere. Soprattutto anche in America Latina si è consolidata la presenza di Jeep, che ricordiamo viene prodotta anche lì in uno stabilimento separato che è entrato in produzione, diciamo, un paio d'anni fa, e quindi che fa parte della strategia globale del marchio Jeep, che sappiamo è attualmente il più forte dell'intero gruppo. Grazie anche a Andrea Malan. Adesso diamo un'anticipazione, nel senso che dobbiamo ancora avere la notizia definitiva, l'intervento di Donald Trump, ma tutto il mercato, restiamo comunque in tema di borsa, perché tutto il mercato attende con oggi l'annuncio della famosa riforma fiscale di Trump, quella che dovrebbe portare, e già in parte confermata da oggi dal segretario del Tesoro, l'aliquota societaria dall'attuale 35 al 15%, sullo sfondo però questo vorrà dire 2.200 miliardi di dollari di entrate fiscali in meno in 10 anni, sono 220 miliardi in meno all'anno, con un aumento del deficit tra il 2 e il 2,5% rispetto al PIL. Non c'è molto da aggiungere se non capire se e come Trump potrà avere l'appoggio del Congresso su una riforma così radicale. Festeggia Laffer, il padre della curva di Laffer, quella che dice che tu abbassi le tasse, la famosa curva della Reagan Economics, ottieni un aumento del PIL e quindi poi ti rientrano dalla finestra le entrate fiscali a cui hai rinunciato, perché aumenta l'economia e quindi tu hai una aliquota più bassa, però che si applica a un denominatore più alto, diciamo. Su questo Laffer è ovvio che vada a esultare. Vorrei capire come la vedrà il Congresso, e soprattutto come mai in America non preoccupa un deficit in aumento del 2 punti e mezzo rispetto alle previsioni. Con Mario Platero in collegamento da New York. Buonasera Mario. Eccoci, buonasera Sebastiano. Beh, giornata chiave devo dire oggi, anche perché questo annuncio chiaramente coincide con la scadenza dei 100 giorni di Donald Trump, 100 giorni che non sono stati, come dire, brillanti anche dal punto di vista dei sondaggi, e dunque in qualche modo il presidente doveva dimostrare di tenere fede alla sua agenda politica, e quindi ha deciso di anticipare questo annuncio per la riforma fiscale. Ecco, vorrei sottolineare che si tratta, il resto tu stesso lo hai anticipato prima, si tratta di un annuncio, di una proposta, perché poi il presidente propone, ma è il Congresso che dispone, è quella cifra che tu hai menzionato, quei 2.000 miliardi, oltre 2.000 miliardi di disavanzo che questo taglio fiscale finirà per portare, insomma, preoccupano non soltanto i democratici, ma anche i repubblicani. Ecco, allora Mario, resta con noi, perché adesso ho il GR24. Il punto, io penso che non ci sia nessuno contrario alla riduzione delle tasse sul, in questo caso, l'aliquota societaria delle società. Il problema è capire, appunto, se veramente la curva di Laffer funzionerà, e cioè se tutto quello che vai a perdere per minori entrate fiscali ti rientra perché cresce di più l'economia e quindi più bassa la pressione fiscale, ma si applica a una platea più vasta, e se no come fa l'America a tranquillamente volare verso un deficit oltre il 10%. La risposta ti chiedo però un po' di pazienza dopo il GR24. 349-238-6666 per SMS WhatsApp. Un cordiale saluto da Armando Torno. Musica Maestro di questa settimana sarà in collegamento con l'Università di Roma, in particolare con il professor Franco Piperno, che vi parlerà di un libro recentemente da noi concepito e recentissimamente uscito, dal titolo Musiche nella storia, dall'età di Dante alla Grande Guerra, realizzato da un gruppo di docenti della Sapienza, con l'intento di proporre al lettore una riflessione sulla collocazione delle musiche nella storia nel periodo indicato. A risentirci dunque domenica prossima alle 21:15. Un cordiale saluto da Armando Torno. Scegliete la vita, scegliete un lavoro, scegliete una carriera, scegliete la famiglia, scegliete un maxi programma radiofonico, scegliete una frequenza, una giornata, un orario, un conduttore. Scegliete Voice Anatomy. Voice Anatomy, ogni domenica alle 14:30 su Radio 24. Un programma di Pino Insegno. Pier Luigi Pardo, confesso che ho perso il numero delle stagioni. Hai perso il conto perché abbiamo una marea di cose: la Champions League, l'Europa League, il campionato, il calcio internazionale. E poi? E tutti i giorni, tutti i convocati. Guarda, è facile. Tutti i giorni, tutti i convocati. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 15:30 c'è anche De Luca. C'è anche De Luca, è il nostro autore, ma certamente siamo ormai una squadra affiatata, anche se ho perso il conto delle stagioni. Di tutti siamo i convocati. Una squadra fortissimi. Focus Economia. Minuti, sono arrivati molti commenti nel frattempo che mettono in discussione la curva di Laffer. Io non ho mai detto che la curva di Laffer, quella su cui si basa la manovra fiscale di Trump, sia una verità rivelata, diciamo, un dato di fatto. È l'ipotesi che abbassando le tasse prelievo fiscale si liberino più risorse, l'economia cresca di più e quindi crescendo di più rientra dalla finestra quello che hai perso come minori entrate fiscali. Però oggettivamente, Mario Pratero, la manovra proposta da Trump è così forte, dal 35% al 15%, che la domanda è: ma riuscirà l'eventuale crescita più forte del previsto dell'economia a ricompensarla? E se no, l'America non ha problemi ad avere un deficit che viaggia oltre il 10% sul PIL? Ecco, vedi, questo è esattamente l'oggetto del contendere, Sebastiano, ed è di questo che si dovrà discutere in Parlamento, o anzi, si dovrà litigare in Parlamento, perché ci sono posizioni molto diverse. C'è una corrente repubblicana molto forte guidata, se vuoi, dal presidente della Camera, presidente della Camera controllata, come sappiamo, dai repubblicani, che chiede a Donald Trump di introdurre una tassa sui confini. Ecco, questa tassa sui confini dovrebbe rivalersi su certe condizioni che partner commerciali hanno all'interno dei loro paesi. Per esempio, in Europa abbiamo l'IVA, l'America non ha l'IVA. E dunque su questo potrebbe essere un intervento piuttosto importante, perché l'idea è di dire: beh, noi reagiamo, prenderemo delle misure contro questi nostri partner commerciali e in questo modo recupereremo queste migliaia di miliardi di cui abbiamo bisogno. Dunque una misura protezionistica. Su questo Trump però non è molto convinto, nonostante lui usi una retorica protezionista, no? Perché però non è molto convinto, vuole davvero agire soltanto sulla base di ritorsioni molto chiare. Per esempio, la misura che ha preso ieri per le importazioni di legname dal Canada è una ritorsione per certe misure che il Canada aveva preso contro l'importazione di latte dagli Stati Uniti. E quindi quello per Trump funziona. Ma l'agire invece in modo aggressivo sul fronte del protezionismo sembra che a lui non piaccia. E dunque abbiamo un problema, perché, per rispondere alla tua altra domanda, è pensare che ci sia davvero un ritorno fiscale in termini di crescita, di aumento del lavoro e dunque di introiti grazie a maggiori salari e dunque grazie a maggiori tasse che vada a compensare, beh, insomma, Non tutti sono convinti, nessuno è sicuro, sarebbe un po' salto nel buio. Dunque, si arriverà davvero a un progetto come quello che ha proposto, che proporrà, e Donald Trump, per 35 al 100%, un taglio da 35 al 10% per il ritorno di capitale italiano di miliardi, stiamo... un taglio dell'aliquota massima che oggi è al 39,6%, al 25% l'aliquota personale è un percorso. No, io, Mario, purtroppo ti stiamo perdendo, nel senso che ti stiamo perdendo come qualità dell'ascolto nell'ultimo passaggio, però forse perché un ascolto migliore io in cuffia. Ho capito quello che stavi dicendo, cerco di riassumerlo, e cioè vediamo se riuscirà veramente a far passare questa versione massima oppure sarà piena di correttivi, tra cui quello che tu citavi, o addirittura il cosiddetto... C'è anche un'altra formula, diciamo, oltre all'una tantum del 10% sugli utili rimpatriati, ma la border tax a cui tu facevi riferimento, addirittura la procedura detta di riconciliazione sulla base della quale la riforma di Trump non dovrà appesantire il deficit pubblico portandolo oltre i tetti prestabiliti entro una finestra di 10 anni, per cui... la procedura renderebbe temporaneo il taglio dell'aliquota, presumendo che poi non sarà controbilanciato da altri aumenti di tasse. Staremo a vedere. Grazie Mario Pettero, mi scuso con gli ascoltatori per l'ultimo minuto di collegamento. Da i temi o i problemi, averli noi questi problemi che ha Trump sulla riduzione di tasse, alla vicenda all'Italia che abbiamo tenuto volutamente per ultima perché ce ne stiamo occupando da giorni, e ripartiamo da questa mattina quando il ministro Carlo Calenda è intervenuto a Mix 24, a Radio 24, e sostanzialmente ha detto due cose molto molto chiare viste le varie ipotesi che erano circolate. La prima, da questo punto di vista, il prestito sarà un prestito ponte da 300-400 milioni da parte dello Stato, prestito ponte. Spero che Lufthansa sia interessata all'acquisto. E poi ha commentato anche la posizione dei 5 Stelle, perché devo dire che oggi, oltre al governo, sulla vicenda dell'Italia sono intervenuti da un lato anche i 5 Stelle, ma anche devo dire Salvini, perché dicendo, allora, nell'ordine, visto che ci sono le primarie del PD, Emiliano ha detto sostanzialmente all'Italia non può essere lasciata al fallimento, come ipotizzato anche dal governo. Il governo deve smettere di interferire sulle libertà sindacali, il governo deve essere arbitro, bisogna casomai rifondarla facendone magari una low cost, non deve fare solo voli Bari-Roma che costano come quelli per New York, deve cambiare strategia. Di Maio ha detto invece, il vicepresidente dei 5 Stelle alla Camera, se si fa un buon lavoro sul piano industriale, sull'efficientamento, sulla spending review, sui buoni manager e sulla ricerca di partner europei, non ci sarebbe neppure bisogno di chiedere interventi pubblici. E poi Salvini, che ricordo aveva fatto autocritica nel 2014 sull'operazione del 2008, quella del governo Berlusconi, appoggiata anche dalla Lega, che bloccò il trasferimento di Alitalia a Air France e la ricapitalizzò nella parte allora chiamata Good Company con i famosi capitani coraggiosi, aveva fatto autocritica nel 2014. Oggi Salvini dice: è chiaro l'obiettivo di chi governa Bruxelles, di servi sciocchi che ci governano a Roma da qualche anno. Su aeroporti hanno già fatto, si vuole svendere il paese, oltre all'Italia vi sarà anche Finmeccanica e Fincantieri, i porti saranno i prossimi patrimoni a essere svenduti. È chiaro che c'è gente che deprime, deprezza e poi acquista sotto costo. Gentiloni, Calenda e compagni dovranno andare a chiedere il permesso a Bruxelles per fare qualsiasi cosa. Sentiamo anche Calenda e poi cerchiamo di ragionare sul fatto se qui sia un problema politico o in realtà un problema di piano industriale, perché io devo essere molto schietto. Abbiamo raccontato molte volte quella che era la proposta di Etihad, quindi l'azionista di maggioranza, ai sindacati, poi bocciata. I tagli erano chiari: 2 miliardi di ricapitalizzazione, 900 milioni di nuova cassa e poi conversione di obbligazioni in linea di credito, quasi 1000 esuberi nel personale di terra, taglio medio dell'8% in busta paga, risparmi 350 milioni su altre voci, leasing, aerei, fornitori, handling, ma non si era arrivati al massimo 100 milioni secondo le stime. Ma io il piano industriale di rilancio, per cui tu non puoi solo pensare ai costi, ma devi pensare anche al rilancio e quindi ai ricavi, da parte di Etihad non l'ho capito, cioè non ho capito cosa sarebbe successo. Comunque, Calenda questa mattina era di 24. Il nuovo commissario

Io ho lanciato un appello all'orgoglio dei miei colleghi imprenditori e hanno risposto in moltissimi. E quindi non appena si potrà fare, cioè sarà chiusa, come io auguro, mi auguro, la trattativa con Air France in modo negativo, si formerà questa compagine. Era il 2008 ed era Silvio Berlusconi che bloccò, poi fu eletto l'accordo con Air France voluto, a cui stava lavorando il governo Prodi. Dal 2008, da qui vorrei ripartire, se andiamo troppo indietro, dal 2008 ad ora gli aiuti pubblici sono stati, fino al 2008 erano stati 3,3 miliardi. Dal 2008 in poi la situazione peggiora. Sono altri 4 miliardi e 100 milioni per rafforzare il patrimonio e far fronte a perdite ereditate, cioè totale 7 miliardi e mezzo di aiuti pubblici all'Italia, con gravissime colpe anche del management. La vicenda di Cimoli l'abbiamo raccontata mille volte, ma non è l'unico. Di Cimoli spicca la buona uscita allucinante che gli fu data per un'azienda che era di nuovo in ginocchio. Arriviamo al 2008, al 2015, quindi si perdono dal 2008 al 2015 altri 4 miliardi quasi, un po' di meno. Nel 2015 arriva Etihad, inizia la gestione Etihad e anche qui si spera che sia la volta buona. Matteo Renzi, giugno 2015, allora Presidente del Consiglio. Vorrei chiedervi di allacciarvi le cinture perché qui stiamo decollando davvero, piaccia o non piaccia. Ci sono le polemiche fuori tutti i giorni, ci dicono dovete fermarvi, rallentare. Noi stiamo rimettendo il paese a correre come deve correre, perché l'Italia ha bisogno di non fermarsi e di recuperare gli anni che ha perso. Lo facciamo senza lamentarci di quelli che prima hanno buttato via delle occasioni. Lo facciamo cercando di costruire oggi l'opportunità per i nostri figli e per il nostro paese. All'Italia decolla. E decolla per nuove destinazioni, da oggi Seul, benissimo, non basta, sempre di più, certo. Ma il decollo di Alitalia è il decollo dell'Italia, il decollo dell'Italia è il decollo di Alitalia. E allora, lasciatemelo dire, se vola l'Italia, viva l'Italia. La battuta è chiara, e se si schianta l'Italia, che succede all'Italia? Ma non voglio, diciamo, infierire, diciamo, erano dei desiderata quelli dell'ex Presidente del Consiglio. Fatto sta che dal 2015 ad oggi all'Italia riperde in tutto 800 milioni di euro, 200 milioni li prende nel 2015, tra i 600 e i 650 l'anno scorso, siamo di nuovo a 800 milioni, quindi nel 2012 ne perse 220, nel 2013 570, nel 2014 580, nel 2015 200 e quest'anno tra i 600 e i 650 milioni. Allora, detto così, si ritorna al punto di partenza, dov'è il piano industriale? Antonio Bordoni, autore del libro All'Italia, gli anni dell'oblio, buonasera. Buonasera. Lei ha lavorato per oltre 30 anni in diverse compagnie aeree con il ruolo di financial controller e station accountant. Siccome tra l'altro le compagnie, la TAP portoghese, l'Iberica, l'Iberia della Spagna e la Olympic della Grecia sono state fatte fallire e rinate, che cos'è che, ce lo sa dire in maniera molto semplice sul piano, allora, guardi, industriale, dove dovrebbe andare sta l'Italia? Poi i soldi vediamo, ma insomma intanto il piano industriale. I soldi lasciamoli a parte. Vorrei rifarmi a quanto detto dal ministro Calenda questa mattina circa il fatto che non è possibile, non è attuabile che domani mattina ci svegliamo, si presentano i passeggeri all'aeroporto di Fiumicino e Malpensa e l'Alitalia fallita. Ecco, questa ipotetica situazione è stata vissuta sugli aeroporti di Ginevra e di Zurigo nel 2001, quando la Swissair è stata fatta fallire, e la Swiss, nata dalle ceneri di Swissair, ha chiuso il bilancio al 31 dicembre 2016 con 429 milioni di franchi svizzeri di profitto. Ma il segreto, cioè, qual è? Io vorrei capire anche, cioè, siccome si può fare. Allora, si può fare, perché a un certo punto qui è inutile che continuiamo, se vinceva il sì, da qui a sei mesi, a un anno, ci saremmo ritrovati esattamente nella stessa situazione in cui ci siamo trovati già 50 volte in questi ultimi anni. Maurizio Prato, tredicesimo presidente di Alitalia nel 2008, di fronte all'ennesimo fallimento che gli è stato perpetrato alle spalle dell'accordo Air France KLM con Alitalia, ha detto: questa compagnia ha una maledizione, solo un esorcista potrebbe salvarla. E guardi, non ci sono parole più profetiche di questa. E qual è la maledizione? La maledizione è non si riesce mai ad arrivare ad una soluzione concreta. Il piano industriale, ma l'ha visto qualcuno sto piano industriale? No, è quello che dicevo... Io non l'ho visto. Non l'ha visto nessuno, una compagnia che non ha un piano industriale, verso quali obiettivi punta, scusi? Dove ci muoviamo? Io avevo capito che Etihad, modificando radicalmente il piano di CAI, dei soci della CAI, avrebbe puntato sulle rotte a lunga distanza, capendo che l'errore era stato puntare ancora su Milano-Roma e sulla parte, diciamo, nazionale. Però gli aerei sono pochi, l'abbiamo detto molte volte, sono solo 2 in più, 22 per le rotte a lunga distanza. Molti mi scrivono che sul fronte nazionale non c'è concorrenza con il low cost perché ha dei prezzi allucinanti per volare a Catania, per volare a Bari, per volare di qua e di là. Però insomma, lei personalmente che cosa vedrebbe come piano industriale? Perché io vorrei anche capire se qua stiamo mantenendo in vita, diciamo, artificialmente un'azienda. Piano industriale, bisogna parlare di una compagnia viva e vegeta. Oggi l'Italia non è né viva né vegeta. Lei prima ha citato le compagnie delle quattro nazioni cosiddette con il terribile acronimo PIGS. La TAP portoghese ha chiuso il bilancio con 34 milioni di profitto al 31 dicembre 2016. L'Aegean Airlines, che ha sostituito l'Olympic Airways, perché l'Olympic Airways è praticamente fallita ed certo, è stata presa dall'Aegean Airlines, greca, ha chiuso con 32 milioni di profitti al 31 dicembre. Liberia, che fa parte del gruppo IAG con la British Airways, la Vueling e l'Aer Lingus, ha chiuso con 153 allora milioni di profitti. Allora mi dà un titolo su questo. Qual è il segreto? Poi l'avremo ospite anche domani, ma tanto il tema non sarà sicuramente venuto meno. Ma qual è stato il segreto, visto che ce l'hanno fatta, lo dico con massimo rispetto, sia i portoghesi che gli spagnoli che i greci? Il titolo. Tutti ce l'hanno fatta meno che noi, perché l'Italia non è stata gestita da gente che capiva qualche cosa di aviazione civile. Ho capito, ma perché... queste compagniere che cosa hanno fatto per tornare inutile? Hanno avuto dei piani industriali ed hanno puntato su determinati mercati escludendone altri. L'Italia non è una compagnia a lungo raggio, non è una compagnia low cost, opera sulle rotte continentali invase da Ryanair e EasyJet. Ma dove si può andare con questo piano? Dove si può andare con questo piano? Allora lei resti con noi anche domani, perché vorrei capire meglio poi la parte industriale. Chiedo a Marco Ferrando del Sole 24 Ore un brevissimo aggiornamento, perché siamo in chiusura. Oggi, stasera, vi sarà il dibattito su Sky, sulle primarie del PD tra i candidati. Mi sembra che la politica tutto stia facendo tranne che starne fuori, no? Beh sì, è così, anche perché il problema ormai è essenzialmente politico, nel senso che... con le elezioni più o meno in vista poi, sì, i soci e i creditori di fatto si sono chiamati fuori, smetteranno di essere tali la settimana prossima, quando il 2 maggio sarà l'assemblea che e tra l'altro non è un dettaglio da poco il fatto che si sia convocata un'assemblea, quindi saranno i soci a prendersi la responsabilità di approvare la richiesta di amministrazione straordinaria. A quel punto non ci saranno più proprietari, gli debitori saranno riuniti in un lungo elenco con scarsissime possibilità di essere soddisfatti, il problema sarà politico. E meno male che ci sarà, si spera, il rabbocco dello Stato, quei 300-400 milioni, perché una compagnia aerea non è una società come le altre, quindi deve avere una garanzia come dire, di solvibilità. E il problema è che un aereo a New York non riceva il pieno di carburante per tornare indietro, e quindi questo è un tassello fondamentale. Il problema politico, diciamo una cosa, l'Alitalia si aggiunge alle tante cose che l'Italia cercherà di vendere di quei prossimi anni. Allora, io ridò appuntamento a domani, perché voglio capire esattamente i casi di scuola degli altri. Grazie intanto sia a Marco Ferrando ripeto, a chi queste cose le ha studiate per anni e quindi, diciamo, neanche scritto, ad Antonio Bordoni. È veramente tutto per questa puntata di Focus Economia, ci sentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. Libera la voglia di fare.